Ed eccoci in corrispondenza con Torino, con il presidio solidale davanti al carcere nella cui aula bunker si tiene la prima udienza del processo ai tre compagni, alla compagna Notav. Siamo in corrispondenza con un compagno Notav. Pronto? Sì, vi sento. Ciao a tutti e a tutte. Ciao, buongiorno. E innanzitutto, insomma, raccontaci com'è il presidio, raccontaci, sappiamo che sei stato in aula, quindi se hai visto i quattro compagni, ci vuoi raccontare come sta andando, loro come stanno? Sì, sì, siamo stati in aula. Allora, il primo dato significativo è che siamo talmente tanti che bisogna entrare a turno, perché si può entrare in una sessantina circa, adesso non saprei fare un conto preciso, ma direi che 400-500 persone qua al presidio ci sono, e quindi facciamo dei turni di un quarto d'ora, 20 minuti per permettere a tutti di partecipare. E io sono stato in aula, ho visto i quattro compagni che sono bellissimi, in forma, pieni di entusiasmo, che sono stati accolti con i cori, insomma, tipici della lotta contro il TAV, sono stati salutati calorosamente. Fino a qualche attimo fa erano ancora in gabbie separate, però stavano disponendo di metterli nella stessa gabbia, ecco. Quindi riusciranno a parlare, cosa che non sono riusciti a fare negli ultimi 5 mesi. Ecco, il presidio è molto partecipato, molto caloroso. Sono dei passaggi veramente significativi, perché chi ha un po' di esperienza di processi, insomma, di situazioni repressive, ecco, non ha visto spesso situazioni di questo tipo, presidi così partecipati, con una solidarietà piena, con una assunzione collettiva molto chiara delle pratiche di azione diretta, di sabotaggio di cui sono accusati i compagni. E sono passaggi che, senza retorica, si possono anche definire storici, dal corteo del 10 maggio, anzi ancora prima, dalla mobilitazione diffusa sui territori del 22 febbraio, che aveva coinvolto una cinquantina di città, al corteo del 10 maggio qui a Torino, dove eravamo circa 20.000, a difendere quattro compagni rivoluzionari che sono accusati di terrorismo, con un discorso non innocentista, ma con un'assunzione piena delle dinamiche della lotta no-TAV. Credo che, insomma, chi ha un po' di memoria storica possa dire che è un passaggio abbastanza straordinario. Quindi, se l'intento era quello di isolare i quattro per spaventarne migliaia, si può dire che, insomma, l'inchiesta da questo punto di vista sia miseramente fallita. Il movimento tiene e rilancia su quel terreno a cui lo Stato l'ha costretto, no? Vorrebbe che retrocedesse su l'assunzione delle proprie pratiche, e invece questo non sta avvenendo, pur con le difficoltà di proseguire in questa lotta, che è indubbiamente difficile, però si sta reggendo, direi, egregiamente la posizione. E non è capitato spesso che, insomma, il terreno della repressione diventasse addirittura un terreno di rilancio in termini di solidarietà, ma anche di dibattito che si sta sviluppando un po' dappertutto sulle forme di lotta. Se ne trae addirittura sugo teorico, ecco, per fare dei ragionamenti che sembravano un po' ingessati da tanti anni in questo paese. Quindi direi che per il nostro non potrebbe andare meglio. Si tratta di continuare, perché fuori questi quattro amici e compagni, e ritornare sui sentieri, nelle strade assieme a loro. Entusiasmo, ecco, non saprei dire. Sì. Di più, ecco. Senti, per chiarire un po', siccome appunto c'è stata la sentenza della Cassazione pochi giorni fa, insomma, che ha insomma, la Cassazione ha ordinato al Tribunale della Libertà di riesaminare l'ipotesi di terrorismo. Per chiarire per chi ci ascolta, ipotesi su cui però i compagni sono ancora sotto processo. Sì, esatto. Allora, la situazione è questa qui. La procura li ha indagati per attentato con finalità di terrorismo e attentato con ordigni micidiali, cioè gli articoli 280 e 280 bis, con una definizione di terrorismo per la prima volta in Italia viene ricavata dall'articolo 270 sexies, contenuto nel cosiddetto pacchetto Pisanu, approvato nel 2005 con una definizione, credo che ormai insomma tanti compagni, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout, di Radio Onda Rossa lo sappiano, con una definizione di terrorismo pensata apposta per i conflitti sociali, perché si passa dal piano che era quello classico purtroppo che si conosce dei processi per associazione sovversiva con finalità di terrorismo che erano calibrati con tutte le forzature che sappiamo del caso verso le componenti rivoluzionarie di questo paese. In questo caso c'è un attacco frontale ad un movimento di massa, perché definire il terrorismo come condotta che vuole costringere i poteri pubblici, le organizzazioni internazionali a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, è evidente che è una definizione di terrorismo all'interno della quale possono stare tutti i movimenti reali di lotta, da quello per la casa, l'opposizione alle nocività ambientali, sociali, eccetera. Chiunque riesca nei fatti a mettere in discussione una decisione dello Stato, no, democraticamente presa, è potenzialmente passibile di incappare nella mannaia dell'accusa di terrorismo. Credo che la portata di questa inchiesta, che si inserisce certo in un solco di diversi anni, che però ha delle sue specificità, sia stata accolta ampiamente, quindi al di là della solidarietà doverosa con i quattro compagni, credo che tanti abbiano capito che qui si sta giocando una partita importante, perché se arrivassero ad un precedente di questo tipo è evidente che i margini di conflitto sociale si restringerebbero ulteriormente, e quindi giustamente un sacco di gente dice no, qua si tratta di difendere e di rilanciare. In questo contesto, ecco, la decisione della Cassazione, nel cui merito bisognerà, insomma, per entrare nel cui merito bisognerà aspettare le motivazioni, perché bisogna vedere se è un ragionamento di sostanza o di procedura, ha imposto al Tribunale del riesame di rivedere i capi di imputazione. Questo non ha un'influenza diretta sul processo, nel senso che la procura va avanti con quella strada lì, e quindi il processo resta per 280, 280 bis. Dopodiché è chiaro che potrebbe avere il suo peso. Però ecco, se questo è un segnale di scricchiolamento, diciamo, del castello accusatorio, va di pari passo anche col fatto che hanno tolto il divieto di incontro ai compagni in carcere, inizialmente si parlava di videoconferenza, invece sono presenti in aula, si sta in qualche modo appunto un po' sbriciolando, ecco, è presto per dirlo, ecco, ci sono alcune crepe nel castello accusatorio, però quello non è il piano nostro, il piano nostro deve essere quello di mantenere alta l'attenzione, la solidarietà, perché questi compagni li tiriamo fuori con le lotte. Il resto è visibilmente un piano truccato, ecco, per quanto siano bravi gli avvocati, e sono indubbiamente degli avvocati bravi, è il piano delle lotte che fa la differenza. Come avevano detto i compagni arrestati nella maxi operazione del cosiddetto processone, eccetera, noi siamo stati liberati dalla forza del movimento. E anche queste sono parole forti, perché per una volta, insomma, suonavano giuste e non retoriche. Senti, e per chiudere questa corrispondenza sul piano nostro, quello della lotta e della solidarietà, della complicità, appunto, ci vuoi dire altre due parole sul presidio, striscioni, slogan? Ci hai già detto, insomma, che ci sono tanti e tante compagne. Sì, sì, ci sono tanti compagni, compagne, ma c'è anche parecchia gente della valle, quindi è un presidio fuori dagli schemi. Non lo so, per dire, c'era un gruppo di valsusini in giacca e cravatta che sono venuti a uno sposalizio con la resistenza, ecco, sono venuti a sposarsi con la resistenza davanti al tribunale. Ecco, la valle è fatta anche di questi aspetti qua, che sono significativi, no? Persone anche anziane che arrivano a manifestare solidarietà a dei compagni che considerano in qualche modo i loro figli della lotta a cui partecipano. In valle alcuni hanno messo a disposizione gratuitamente dei cartelloni giganteschi che hanno coperto i pannelli pubblicitari, quelli di vari metri per vari metri, con scritto Chiara, Mattia, Nicolò, e Claudio liberi. Ecco, quindi sono arrivati con questi striscioni, con questi cartelloni, quindi è una cosa molto, molto viva, ecco, molto, molto sentita. Passaggi, non saprei, veramente importanti. Io, insomma, una solidarietà così, non è che l'abbia vista spesso in vita mia. Beh, bello e importante sentirti raccontare tutto questo. Ovviamente la, come dire, la presenza solidale anche di questa radio, ma questo è nei fatti, e ci sentiamo più tardi per un aggiornamento sul presidio. Va bene, un saluto a tutti. Grazie, ciao. A voi, ciao ciao.